Eccomi qui a scrivere su un thread che è al centro dell'attenzione di tutti, perché qualcuno ha deciso che debba essere questo al centro dell'attenzione di tutti, ovviamente per i prossimi 5 minuti, perché poi cambierà il centro, il focus dell'attenzione. Questo era quello che stavo per scrivere. Diciamo che quello che ho detto fino adesso è un virgolettato. In realtà, invece di scrivere, lo dico, quindi lo pronuncio a un microfono e già questo cambia un po' l'ordine del discorso. Comunque, il thread che tutti quanti devono seguire è quello legato a stare o non stare su X, ovvero Twitter. Se noi continuiamo a considerare internet come una televisione, sostanzialmente stiamo per spegnere dei canali. Quindi spegnendo dei canali diciamo, l'audience si abbassa e i padroni del vapore di quel canale, di quell'entità che chiamiamo X, che potrebbe essere un canale televisivo, capiscono che stanno sbagliando qualcosa, ma continueranno a proiettare, a promettere e a cose ai propri elettori barra spettatori. L'idea di considerare internet come internet, che è un po' lo specifico del mio lavoro, ma inconsciamente, da ormai qualcosa come 21 anni, è invece quella di usare i frame e le cornici e i luoghi dei social network, eccetera, per cercare di tirar fuori la gente precisamente da quei frame, da quei social network, dalla discussione generalista, quindi tirar fuori le persone che vivono sostanzialmente la loro vita connessa attraverso connessioni generaliste fuori dal campo condiviso e per portarle ai margini della discussione dove appunto si svolge probabilmente per tanti aspetti una vita completamente diversa, non voglio dire migliore, a volte sì, ma anche migliore perché no, possiamo dire, ma comunque diversa e di fronte a questa diversità c'è una volontà da parte mia di, diciamo, produrre delle frecce che portano fuori dal discorso generale, quindi dal frame, dalla costruzione generale di senso. In questo e solo in questa, diciamo, modalità di interpretazione delle cose, io continuo a mettere materiali, per esempio, su X, su Facebook, su Instagram, eccetera. Puntando moltissimo sul Fediverso, chiaramente, dove anche posso mettere dei materiali originali, eccetera, che non stanno altrove, e cercando attraverso una serie di ami e di esche di tirar fuori le persone dai luoghi dove normalmente pensano che esista una qualche forma di libertà che sappiamo invece non esistere pressoché da nessuna parte, per andare nei luoghi dove invece si può esperire un margine che non è probabilmente neanche più un margine, proprio perché internet è una realtà di connessione di tutto con tutto. Quindi questa è, diciamo così, l'intenzione. Poi i risultati spesso, come dire, sembrano confermare che questa impressione ha qualche fondamento. Il mio amo, la mia esca, il luogo dove appunto marginalmente e del tutto indipendentemente da questioni legate a numeri metto altri contenuti, un'alterità di fondo, si chiama Slow Forward e su questo sito io inserisco materiali che non hanno niente a che fare, spesso assolutamente niente a che fare con i riquadri, con ciò che entra nel riquadro del comunicato, comunicabile, discutibile, il thread, diciamo così, generalista, che tutti dovrebbe riguardarci, come per esempio stare o non stare su X. Anche in questo caso, e con questa registrazione, io ho deviato dal discorso stare o non stare su X per spiegare che senso ha muoversi in internet e come, almeno personalmente, mi muovo io e mi muovo attraverso un sito, non dei social, anche se esistono dei social di cui io faccio uso come esche e ami.